Friuli nel mondo. Friuli nel mondo. Lavoro friulano in Austria. Decima trasmissione dedicata agli emigrati. Testo di Chino Ermacora. Partecipa alla trasmissione l'Ottetto di Capriva, diretto dal maestro Francesco Cappello. Musiche originali di Giovanni e Giuseppe Strauss. Musiche popolari carinziane, tirolesi e friulane. Chi conosce appieno l'odissea del Friuli migrante? Prima del 1914, più di 80.000 friulani, oltre un decimo della popolazione della provincia di Udine, esclusa quindi Gorizia, allora sotto l'Austria, si riversavano ad ogni primavera nelle verdi vallate del Lin, della Drava, della Sava, della Mur, del Danubio, il fiume che tutte queste acque convoglia al Mar Nero. Nella maggior parte boscaioli e carpentieri della Carnia, del Canale del Ferro, della Valcellina. Fornaciai, muratori, decoratori delle zone pedemontane e della pianura. La terra non dava pane per tutti, anche se estesa sino al mare. Troppi acquitrini e troppe incomprensioni la rendevano ostile e troppi figli crescevano nei poveri focolari. Al loro apparire i tedeschi esclamavano: Jetzt kommen die Schwalben. Ora vengono le rondini e i nostri di rimando. Ma il nido ce lo faremo in Italia. Canti e suoni che avevano riempito il convoglio per mitigare il ricordo pungente dell'ultimo addio si andavano smorzando in vista dei campanili dall'Aguglia a Cipolla dei paesi oltre i monti. Altra aria ormai. Mentre le compagnie si frazionavano nelle stazioni con richiami e saluti rumorosi, i novellini si guardavano intorno stupiti, gli anziani, additandoli ai primi, risalutavano i comignoli delle fornaci dove avevano lavorato l'anno precedente. Alle fornaci erano approdati, dalle fornaci erano partiti i grandi scostruttori che riempivano le città di edifici sontuosi, che costruivano strade ferrate, che perforavano le montagne con lunghe gallerie, che lanciavano ponti sui grandi fiumi. Erano partiti da un desco d'argilla, dopo essersi nutriti per l'intera stagione di polenta e formaggio, di formaggio e polenta. Unica variante, il di festivo, quando gli anziani solevano frequentare la Gasthaus, l'osteria, e i giovani raggrupparsi nella piazza del paese per ammirare le ragazze che avevano cantato così dolcemente in chiesa. Queste si disponevano spesso in cerchio sotto il tiglio o la quercia, trecce d'oro sui corpetti di velluto, e cantavano abbandoni d'amore nella loro lingua. Komm mit mir ins Walsertal, die Ololoveria Oriri. So schön findst du's nicht überall, die Ololoveria Ololoveria. Talvolta i nostri, vinta la timidezza iniziale, tessevano con quelle sorridenti Fräulein un idillio canoro che scopriva all'improvviso l'anima sorella di due popoli. Cantavano le antiche villotte della loro terra i bruni figli del Friuli e le ragazze li seguivano estasiate. La mare in cosine, se basta un lassù. Non infrequente il caso che i canti sotto il candore della luna si cercassero tra la fornace fangosa e i davanzali fioriti. e che la nostalgia di focolare si confondesse col desiderio di conoscere il paese dove fioriscono gli aranci.